290. Lingua di bue al sugo di carne. Eccovi un'altra maniera di cucinare una lingua di bue del peso, senza la pappagorgia, di oltre un chilogrammo. Spellatela, come è indicato nella ricetta numero 289, e steccatela con grammi 60 di lardone tagliato in lardelli conditi con sale e pepe. Legatela perché resti distesa e mettetela al fuoco con grammi 30 di burro. Conditela con altro sale e pepe, rosolandola alquanto, e poi tirate la cottura col sugo di carne versato un poco per volta. Cotta che sia, il sugo che resta, passatelo e condensatelo al fuoco con un pezzetto di burro e meno di mezza cucchiaiata di farina per unirlo alla lingua, che manderete in tavola tagliata a fette, contornata di erbaggi lessati e rifatti col burro ed il sugo.